快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。送生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，今天首先为您带来的是罗西尼的歌剧《布鲁斯基诺先生》中的经典唱段，由凯瑟琳·巴特尔、塞缪尔·拉梅等演唱，伊昂·马林指挥英国室内乐团演奏，下面就请您连续欣赏。 Thank you.

niente io stanco già bonette la stanco dopo già Zitto, cugino stia serrato per tre anni imprigionato. Pace questo di chiamare, pace questo di chiamare. La bandiera, la bandiera, la bandiera in faccia. La bandiera in faccia, la bandiera in faccia. Io sono già, io sarò già, io sarò già. Trasformiamoci in quel signor bruschino che ha da sposar Sofia. Una lettera? Sì, sappia Marianna il gran progetto. Orsù, spirito e cuore, entriamo in colpo e ci protegga amore. cercai la mia fortuna. Io

dei